GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Domenica di Pasqua in viaggio, capitali europee, città d'arte italiane, le mete più richieste, ma fra le destinazioni ci sono anche le località della nostra regione. E fra esse l'isola di Grado, l'isola d'Oro, che con questo ponte apre di fatto la stagione. Tanti gli stranieri negli alberghi in riva alla laguna. Buoni affari anche per gastronomie e negozi per la preparazione del pranzo pasquale con menù composti, tenendo d'occhio la qualità dei prodotti e anche i rincari. Politica, da martedì il via ufficiale ai contatti del presidente Fedriga con le forze della sua coalizione per la composizione della nuova giunta, ma il Totonomi e i contatti informali sono ovviamente già cominciati. Emergenza siccità, le piogge di marzo non bastano per uscire dall'emergenza, nel Codroipese la situazione è peggiore di un anno fa. Weekend deludente per lo sport regionale, l'Udinese pareggia al Friuli con il Monza, perdono il Pordenone e la Triestina in Serie C, sconfitte anche nel basket per Pallacanestro Trieste e in A2 per Apu Udine e Gesteco Cividale. Domenica 9 aprile 2023, sono le 8:31 minuti e 25 secondi. Buongiorno e buona Pasqua dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Eva Ciuc e Antonio Cagliazza. Vediamo come il tempo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile. Ecco le temperature registrate alle 7. A Trieste e a Udine 8 gradi, a Pordenone e a Gorizia 7. Piancavallo 0, Sappada meno 2, Forni di Sopra 1. 1 grado, Tarvisio 3, Tolmezzo 2, Monte Zoncolan meno 4, Monte Lussari meno 5, a Grado 9 e a Lignano 7. Le previsioni, oggi il cielo in genere sarà da poco nuvoloso a variabile, dal pomeriggio saranno probabili locali annuvolamenti più consistenti con rovesci sparsi, specie sulla fascia prealpina. La quota neve sarà indicativamente sui 1200 metri circa, domani bel tempo. Per le feste di Pasqua le prenotazioni nelle agenzie di viaggio non sono mancate, tra le destinazioni preferite ci sono le città d'arte italiane e anche le capitali europee. Si torna a viaggiare a Pasqua, città d'arte tra le mete preferite, anche se c'è chi sceglie destinazioni più calde come Egitto e Canarie. Agenzie di viaggio dunque soddisfatte delle prenotazioni. Paolo Lucangeli è presidente degli agenti di viaggio per Ascom Pordenone. C'è un trend in crescita rispetto all'anno passato che fa ben sperare anche per gli anni futuri. Quali sono le mete più gettonate? Sicuramente le nostre città d'arte, che comunque sono un patrimonio universale, quindi sono molto visitate e molto richieste. Poi chiaramente ci sono altre città come, non so, Barcellona, Madrid, Parigi, che sono le solite destinazioni che per la Pasqua vengono molto richieste, essendo comunque a breve raggio. E infine abbiamo mete un pochino più calde, visto anche il clima che in questi giorni non è molto favorevole, un po' fuori dal target, diciamo, primaverile. Abbiamo in particolare il Mar Rosso, quindi Sharm el Sheikh, o destinazioni come le Canarie, che comunque mantengono un clima favorevole, diciamo, durante tutto l'anno. In calo invece le richieste per la Terra Santa. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Grado un ponte pasquale con ottimi livelli di presenze turistiche, primo vero test in vista dell'estate. E già movida a Grado Pineta con il Festival dello Street Food. Per tutto il ponte pasquale, cucina veloce, regionale ed etnica. Intanto il flusso turistico non si è fatto attendere, sentiamo l'agente immobiliare Eleonora Molea. Per le festività pasquali tutti gli appartamenti che avevamo a disposizione sono stati prenotati. E invece per quanto riguarda il 25 aprile, 1 maggio, Ascensione, Pentecoste e 2 giugno stiamo già ricevendo tantissime prenotazioni dagli italiani, oltre che ovviamente dai nostri mercati di riferimento, l'Austria e la Germania, ma anche dalla Slovacchia, dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovenia. Piscina aperta a Pasqua e Pasquetta con centro massaggio e sauna, è tutto esaurito anche sui campi da tennis. Siamo qui per un campus d'allenamento con la nostra squadra, l'UTC di Steyr in Austria. Ci stiamo preparando per il campionato di Serie A. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto pronto o quasi per il pranzo di Pasqua. Ieri gli ultimi acquisti nel segno della tradizione. Malgrado gli aumenti dei generi alimentari e un meteo un po' ballerino rispettata la tradizione del pranzo di Pasqua e Pasquetta, tanta la gente che la vigilia si è sobbarcata a code per gli ultimi acquisti, presa d'assalto le gastronomie, pasticcerie e le macellerie, molte delle quali già in tarda mattinata avevano esaurito alcuni tagli. Durante il mese normale la costa, diciamo che ne vanno via il numero, sotto le feste vanno via al quadruplo e si rimane come ogni anno sempre senza costa. Si mangia un po' sempre le solite cose, il capretto, l'agnello, dopo qualche grigliatina, speriamo nel tempo, che sia bello domani e lunedì per la Pasquetta, per giovani e vecchietti che la griglia va sempre fatta. Anche la tradizione dei dolci e dei prodotti artigianali è rispettata, malgrado il rintocco dei prezzi del prodotto finito. Alla fine siamo rimasti anche sforniti, da un po' titubanti che eravamo, come sempre alla fine, cioè, come sempre siamo anche sforniti, siamo rimasti sforniti proprio, ieri ci hanno presi d'assalto, malgrado un po' qualche piccolo momento, però alla fine la gente c'è poco da fare, guarda, la qualità alla fine paga. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica cominciata e proseguiranno subito dopo la pausa pasquale le trattative del centrodestra per mettere a punto la nuova giunta regionale. Il secondo esecutivo Fedriga vedrà un maggior numero di assessori, espressione di Fratelli d'Italia, ma molte saranno le conferme. Comincerà martedì il primo giro di incontri tra le delegazioni dei partiti e il presidente Massimiliano Fedriga per selezionare 10 componenti della giunta. A cascata verranno le scelte sul vicepresidente della regione, sul presidente del consiglio e sulle presidenze di commissione. La continuità di cui parla Fedriga manifesta la volontà di cambiare il meno possibile. Fratelli d'Italia passerà da 1 a 3 assessori e potrebbe prendere in mano le deleghe ora libere. Per le infrastrutture si fa il nome di Cristina Mirante, goriziana ma da tempo residente a Pordenone. Cultura e sport potrebbero finire a Mario Anzil. Fabio Scoccimarro potrebbe mantenere l'ambiente. Fedriga, in rappresentanza della sua civica, dovrebbe puntare di nuovo su Alessia Rosolen, Sergio Bini e Pierpaolo Roberti, ora al lavoro, attività produttive e autonomie locali, rispettivamente. La Lega potrebbe confermare Barbara Zili, Stefano Zanni e Sebastiano Callari, che vengono da Finanze, Agricoltura e Patrimonio. Per Forza Italia potrebbe rimanere la Sanità, Riccardo Riccardi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Domani il segretario della Lega Matteo Salvini dalle 19 sarà a Udine, dove incontrerà il candidato sindaco Fontanini, i candidati in consiglio e i militanti. L'emergenza siccità, le piogge di marzo hanno avuto un effetto relativo sulle falde in Friuli, la situazione cambia a seconda della zona. La situazione delle falde nel mese di marzo è di nuovo peggiorata dopo la ripresa di febbraio, eppure le piogge ci sono state, anche se più frequenti, nella fascia orientale rispetto a quella occidentale. Il consorzio della pianura friulana ha fatto il punto della situazione per il mese di marzo utilizzando due parametri, uno per la parte centro-occidentale della pianura e uno per la zona a nord-est di Udine. Nel Codro Ipese la situazione rimane peggiore rispetto ad un anno fa. A Nespoledo di Lestizza il livello della falda è più profondo di quello registrato nel marzo del 2022. Il rialzo di febbraio si è esaurito e il grafico è ripreso a scendere, come era accaduto ininterrottamente l'anno scorso fino ad agosto. Per capire gli effetti delle piogge sulla falda bisogna attendere 10-15 giorni, quindi tra poco capiremo se le precipitazioni dell'ultima settimana di marzo sono servite a qualcosa. La situazione è un po' migliore a est di Udine, come testimonia la falda di Orzano di Remanzacco. La media è al di sopra di quella del 2022 di oltre un metro. E anche in questo caso, dopo la risalita del grafico a febbraio, c'è stato un nuovo abbassamento. Ma in entrambe le situazioni i livelli sono molto più bassi rispetto al periodo 2005-2021. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. La Pasqua di Risurrezione del Signore è come la primavera quando le gemme spuntano sugli alberi, una prospettiva che contrasta con le grida disperate che provengono da tante situazioni dolorose, fatte di miseria, fame, malattia, soprusi e guerre. Sono alcuni i brani del messaggio per la Pasqua dell'arcivescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo Crepaldi, che ricorda anche la guerra in Ucraina, i conflitti dell'Africa, quello israelo-palestinese, senza dimenticare profughi e rifugiati. Alle 10:30 l'arcivescovo celebrerà in cattedrale la Santa Messa, mentre alle 18, sempre in San Giusto, presiederà il canto dei Vespri Solenni. Non possiamo nasconderci che ci sono persone e movimenti che con rabbia e perfidia vogliono cancellare Gesù e il suo Vangelo dalla società. Sono le parole dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Mazzoccato, che nel suo messaggio in occasione della Pasqua ha detto anche che in certi paesi, ha proseguito, i cristiani a causa della loro fede in Gesù sono perseguitati e martirizzati. L'arcivescovo, come da tradizione, si recherà nella casa circondariale di Udine per celebrare l'Eucaristia con i detenuti e poi presiederà il solenne pontificale in cattedrale alle 10.30, alle 17 i vespri. Nella chiesa di Sant'Ignazio a Gorizia, Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli presiederà il solenne pontificale nel giorno di Pasqua alle 10. Il vescovo della diocesi di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, celebrerà alle 11.30 nella concattedrale di Pordenone la Santa Messa di Pasqua. A Cividale del Friuli, in occasione della Pasqua, torna il gioco del truc, una tradizione in cui vengono fatte scivolare uova colorate in un catino di sabbia a forma ovale, in una sorta di gioco di bocce pasquali. Il truc sarà disponibile in vari luoghi della città, tra questi Piazza Paolo Diacono, Piazza Foro Giulio Cesare e presso l'ex scuola materna di Grupignano. Qui è in programma anche la mostra Viaggio tra pizzi, ricami e ceramiche di un tempo, a partire dalle 14 fino al crepuscolo. Ed eccoci allo sport, il calcio, pareggio in extremis ieri per l'Udinese 2-2 contro il Monza allo Stadio Friuli. Il pareggio al Friuli con il Monza è il 12° in campionato, nessuno come l'Udinese. Manca ancora la vittoria, ma questa volta i friulani hanno rischiato di perderla. Le assenze di Pereira, squalificato, e quella cronica di Deulofeu, infortunato, contano, ma non possono essere un alibi. Udinese, che trova il gol del vantaggio con Lovric nel primo tempo, controlla la gara, ma al rientro dallo spogliatoio, nella ripresa, ha un atteggiamento diverso. Il Monza pareggia subito con Colpani e poco dopo segna il gol del vantaggio con Rovella, ispirati da Carlos Augusto e Assensi, con due assist che trovano impreparata la difesa dei friulani. L'Udinese è incapace di una reazione, non crea pericoli alla porta di Di Gregorio, rischia di subire il gol partita e al 90° è salvata da un errore di Petagna, che nella propria area di rigore travolge Nestoroschi. Il penalty lo mette a segno Beto, 10° gol del portoghese per il punto numero 39 in campionato della squadra di Sottil. Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C il Pordenone ha perso in casa per 1-0 contro la Pro Vercelli, neroverdi sempre più lontani dalla vetta. Stesso risultato per la Triestina, che ha perso per 1-0 a Salò contro la capolista Feralpi. Lombardi in gol al 69° con Butic e promossi in Serie B. Alla Bardati penultimi, a un solo punto dal fanalino di coda Piacenza, a 2 giornate dal termine. Basket in A1, la Pallacanestro Trieste a Trento è stata sconfitta per 85-68. La solita Pallacanestro Trieste da trasferta, quarta sconfitta di fila, 18 punti di scarto medio lontano dall'Allianz Dome, alza bandiera bianca anche a Trento, perché è stregato quello trentino, visto che in 5 occasioni da ritorno in A1 i biancorossi non sono mai nemmeno andati vicini alla vittoria. La partita dopo il successo contro la Virtus Capolista è una sorta di gita di gruppo con la pancia piena ma d'aria, vista la situazione in classifica ancora tutt'altro che risolta. A parte le primissime battute non c'è partita, la squadra di Legovic pare scollata, con Bartley che gioca male per sé e gli altri ad andargli dietro, e come spesso capita lontano dal Pala Trieste, gli italiani danno troppo poco per raddrizzare la rotta. Con il talento ventenne spagnolo di cognome e italianissimo di passaporto a predicare assieme all'ex di Salata Krajulis, Trento scappa nel secondo periodo con 3 triple consecutive a cui Ruzier e compagni non riescono a reagire. Il 18/44 da 2 punti su Gela è una prestazione sconcertante, dove la squadra di casa è sempre tra i 20 e i 25 punti di vantaggio. Nel finale qualche lampo di Bartley serve più alla guardia americana per portarsi a casa il titolo di capocannoniere che ad altro. Finisce 85-68. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 Apudene ha perso a Milano contro Urania per 92-87, una sconfitta anche per Gesteco Cividale, sconfitta a Torino per 89-86. In classifica le due regionali restano rispettivamente al 4° e 5° posto. Nitido successo casalingo per la Pallanuoto Trieste nella terz'ultima giornata di ritorno del campionato di A1 maschile. Alla Bianchi la squadra giuliana ha battuto per 13-11 il 5° Genova. In classifica gli Alabardi guardati restano saldi al quinto posto. Nella Serie A femminile di pallanuoto, Trieste nella gara di ritorno dei quarti di finale playoff ha vinto a Rapallo per 8-5, piazzandosi tra le prime quattro squadre in Italia. Pallavolo femminile, Serie A2, nella sfida casalinga, l'Itas Martignacco ha battuto la Volley Olbia per 3-1 nel penultimo match del pool promozione. Sfogliamo i giornali di oggi, la prima pagina del Piccolo di Trieste, l'estate ai tempi dell'euro, rincari su tutto in Istria, dai locali agli alberghi, ovunque prezzi all'insù, è il titolo del reportage all'Interno firmato da Elisa Coloni sulla prima estate senza cune. Foto centrale, momenti di serenità in Osmizza, a Pasqua la tradizione del tour fra le frasche. Richiami in prima per la politica, Toto Giunta delega alla sanità Riccardi in pole position per la riconferma, mentre Fratelli d'Italia chiede più spazio e prenota il posto da vicepresidente. Per il Consiglio regionale i riflessi sulla Giunta Comunale di Trieste, dove Lo Bianco lascia e arriva Babuder, mentre il sindaco di piazza è alle prese con il rebus Grilli, l'assessore alle politiche sociali, eletto anche lui in regione. E questo è il tema di apertura delle pagine della città. Nel paginone culturale l'intervista a Rocco Papaleo, che porta al Rossetti il suo Coast to Coast in scena martedì. Il Messaggero Veneto, nell'edizione del Friuli, sceglie di dedicare il titolo centrale al turismo in Friuli Venezia Giulia, l'imposta di soggiorno e i bilanci dei comuni. Il titolo, 5 milioni di introiti per le amministrazioni che possono applicare il tributo. In taglio alto la fotonotizia, tricolore per la dunata degli alpini. In città è già cominciata l'installazione di 3.800 tricolori. Poi gli altri titoli, Artenia, escursionista soccorso dopo una caduta sul Monte Faeit, San Daniele, auto si ribalta più volte sul Guado, ferita una donna. E poi Manzano, addio al tenore Franco Menossi, una vita dedicata alla musica lirica. Lo sport, l'Udinese si salva con il Monza grazie a un rigore e pallacanestro, trasferte a mare per Apu e Gesteco. Il Gazzettino, sempre nell'inserto del Friuli, Federica Bis, in giunta più conferme che sorprese, la legislatura in continuità con quella precedente. Il titolo a centropagina sulla banda larga che è in ritardo nelle città. E poi lo sport, nella fotonotizia, ancora un pareggio casalingo per i bianconeri, l'Udinese ringrazia il solito Beto. Altro sport in prima pagina, vediamo come titola il Gazzettino, Chionsin D, Brian Lignano spera e basket al tappeto, sia Old Wild West che Gesteco. Edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo, a centropagina la foto dei lavori alla spiaggia dell'Isola dei Bagni a Monfalcone con nuovi servizi e un topolino. Debutterà il 1 giugno e lo farà con nuovi arredi e attrezzature, quasi completati i lavori di consolidamento della terrazza a mare, di fatto un topolino simile a quelli di Barcola. All'interno del giornale l'apertura di Gorizia, il turismo in città si è risvegliato, riapre il Grand Hotel Entourage, occupate più dell'80% delle camere. Altro articolo sotto, il record di B&B in provincia, sono 12 a Gorizia e sono in crescita. Nelle pagine del Monfalconese, la Regione premia il Festival dell'Acqua, l'idea di Staranzano finanziata con il bando di divulgazione scientifica. Si terrà la prima edizione dall'11 al 15 maggio. La Regione ha emesso le graduatorie per la concessione dei contributi. La manifestazione è risultata in testa ai progetti e ha ottenuto 25.000 euro. Intanto Monfalcone e Ronchi puntano su arte e giornalismo e nella città dei cantieri approdano le mostre su Giuseppe Zigaina e Antonio Lasciak. Il Messaggero Veneto nell'edizione di Pordenone apre con il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, l'occupazione cresce con il turismo e i servizi, le stime 8.300 assunzioni in aprile, le categorie pordenonesi più competitività. La fotonotizia, piantato il primo albero al Marcolin, si farà il censimento del verde. Gli altri titoli sempre in prima, l'attività della diocesi, c'è l'intervista all'interno del giornale al vescovo che dice tutto è cambiato e la chiesa deve riorganizzarsi. Poi la solidarietà a Magnago torna e dico la raccolta di fondi per la ricerca. Restiamo a Pordenone con il Gazzettino, in taglio alto ritroviamo il titolo sul Fedriga Bis, il titolo centrale invece è Stadio, adesso ci sono anche i soldi, mediazione dell'onorevole Loperfido, il comune capoluogo può entrare nel bando sport e periferie da cui sembrava escluso. Lo sport, nella fotonotizia, il Chions vince e torna in Serie D, giochi fatti in anticipo nel campionato di eccellenza, e in taglio basso procede a rilento la banda larga per l'internet veloce. Per la Pasqua i musei della regione seguiranno orari differenti. A Trieste oggi e domani i musei civici resteranno aperti seguendo l'orario domenicale festivo. Aperti anche i musei statali della regione. A Miramare il castello è aperto dalle 9 alle 19, il parco sarà aperto fino alle 19, i musei archeologici di Aquileia e Cividale dalle 10 alle 19. Le sedi espositive dell'ERPAC resteranno aperte dalle 10 alle 19, Villa Manin a Codroipo con la mostra Guerra all'Arte. Aperto anche il Magazzino delle Idee con la mostra Ritratti Africani, sempre dalle 10 alle 19. E poi il Faro della Vittoria a Trieste, visitabile oggi dalle 10 alle 13 e ancora dalle 15 alle 19. Sono le 8:50 minuti 10 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Per il momento è tutto. L'informazione della RAI torna alla radio col GR delle 12:15, poi il telegiornale delle 14 su Rai 3. Tra poco c'è Vita nei campi. Grazie della cortese attenzione da Eva Ciuc e da Antonio Cajazza. Buona Pasqua e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.